trenta, trenta sedi, quaranta tre. Ora sì che io son contento, sì profondo il ver per me, sì profondo il ver per me. Cinque. Guarda un po', mio caro figlio. Dieci. Guarda un po', mio caro figlio. Venti. Guarda un po'. Trenta. Guarda un po', guarda adesso il mio cappello. Trenta sei. Quaranta tre. Guarda un po', mio caro figlio. Adesso il mio cappello, il mio cappello, il mio cappello. Sì, mio cuore vorrei più bello. Sembra fatto in ver per te. Sembra fatto in ver per te. Guarda un po'. Sì, mio cuore. Guarda un po'. Vorrei più bello. Tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Perch'io son la Susanna e tu sei pazzo. Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco, si potria si star meglio in altro loco. Se a caso Mara notte ti chiama, Mara ti chiama. Din din, din din, in me passi da quella poi gir. C'è poi l'occasione e vuolmi padrone, e vuolmi padrone. Ton ton, ton ton, i tre salti lo vado a servir. Thank you. giudice di nuovo. E signor conte, stanco di andar cacciando le straniere belze forestiere, vuole ancora nel castello ripetor la sua sorte, leggia di sua consorte, vada bene, appetito gli viene. E ditti dunque? Della tua Susanetta. Di te? Di me medesima. Utilissima sieta e vicinanza. Bravo, tiriamo avanti. Queste le grazie son, questa la cura che vi prendi di te, della tua sposa. Oh, guarda un po', che carità pelosa. Che tu ti rivieni meglio, Don Basilio, mio maestro di canto, e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripeto ogni di questa canzone. Chi? Basilio, o birbante! E tu credi che fosse la mia dote merto del tuo beluso? E n'era lusingato! E la destina per rotte merda mi certe mezz'ore che il diritto feudale... Come? E feudi suoi non hai conti abolito? E ben ho repentito, e par che tenti riscattarlo, Tony! Bravo, mi piace! Che caro signor conte, ci vogliamo divertir, trovato a fede. Chi suona? La contessa. Addio, addio, Fifi, Figaro ben. Coraggio, mio tesoro. E tu, cervello. Bravo, signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto quel vostro progetto. A Londra è vero, poi ministro, io corriero, e la Susanna. Secreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, Figaro il dice. Se vuol ballare, signor contino, se vuol ballare, signor contino, il chitarrino mi suonerò, il chitarrino le suonerò, sì. Thank you. aspettasti il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo. Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per rompervi sponsali più avanzati di questo vasto spesso pretesto. Ed egli amico, oltre questo contratto, certi impegni so io. Basta, conviene la Susanna terrir, conviene Godardi impuntigliarla a rifiutare il conte. Egli, per vendicarsi, prenderà il mio partito. E Figaro così sia mio marito. Bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica a chi mi fece un di rapir l'amica. La vendetta, oh la vendetta, è un piacer servato ai santi, un piacer. Te lo tratti, ma senza l'onor di realtà, ma senza e onor di realtà. Thank you. Oh, yeah. mi sembri agitata e confusa. Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite! Un momento e ti lascio, odi. Non nodo nulla. Due parole. Sai che ambasciatori a Londra il re mi dichiarò di condur me co Figaro destinai. Se forse osassi. Parla, parla mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi. Chiedi, imponi, prescrivi. Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo. Oh, mi infelice. Anno, Susanna. Io ti vo far felice, tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse, or senti se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno. Questo favore io pagherei. Uscito poco fa. Ti parla? Oh, eh sì, alcun non entri. Chi vi lasci qui solo? Domani mai sarà. Vado a cercarlo. Qui dietro mi porrò. Non vi celate. Aci, e cerchi che parta. Oh, che fate? Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso vedute il conte? E cosa deve farmi qui, conte? Animo, uscite! Aspettate, sentite! Figaro di lui cerca! Uccelli, e cerca chi dopo voi più l'odia! Vediamo come mi serve! Io non ho mai nella moral sentito! Uno ama la moglie o il marito! Per dir che il conte va! Sortitevi, ministro, dall'altrui stranatezza! Io non ho d'uomo della vostra morale, dei conti di suo amore! Non c'è alcun male, a ciascun i suoi gusti! Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio! A cherubin d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare. Uomo regno, un'impostura e questa. E un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e altrui nulla dico. E per voi, per madama. Che diavolo! A proposito, figlia, istruitela meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tali modestia che si conte s'accorge che su tal punto sapete egli una bestia. Scellerato! E perché andate voi tra menzogne spargendo? Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo. A quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo. Come? Che dicon tutti? Oh, bella! Oh, cielo! Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor. Signor, che ruino, me mestiero, sono preso dal lor. Scattate, andate, in mal punto, son, che scattate, perdonate, o mio su questo seggio. Barbarina paurosa fuor deluso, io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito, ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino, vedo il paggio. Ah, cosa feggio! Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i pena. Io che sento, andate! Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente? Non ha proprio di scusa né innocente. Ma costui quando venne? Egli era amico quando voi qui giungeste, mi chiedea di impegnarlo, padrona, a intercedergli grazie. Il vostro arrivo in scompiglio la pose, dall'ora in quel luogo si nascose. Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai, e la donna di dietro io mi celai, e quando io la mi posi, allora io piammi volsi e qui m'ascosi. O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea? Fici per non sentir quanto potere. Oh, perfidia! Frenatevi, vien gente! E voi restate qui, piccio al serpente! commedia. Eccoci in danza, seconda di cor mio. Non ci asperanza. Signor, non isegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or chiamoliste un diritto singrato a chi ben ama. Quel dritto non è più, cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che è vostro dono, ilibata servo, coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta. Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo. A natura al dover lor dritti orendo. Evviva, evviva, evviva! Che virtù! Che giustizia! Ah, voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio infacciare i miei più fidi e con più ricca pompa rendermi appien felici. Marcellina si trovi. Andate, amici! Reggimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio. Fin domani no, parta tosto. Obbedirmi, signor, son già disposto. Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano. Devo parlarti prima che tu parta. Addio, picciolo cherubino, come cangia in un punto il tuo destino. Non piadrai, tartalone amoroso, notte e giorno di torno girando, pelle belle turbando il riposo, accisetto padocino d'amore. Le belle trovando il riposo, Narcisetto padroncino d'amor. Non piavrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma che l'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto. Ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, e le belle turbando il riposo. una marcia per il fango, per montagne e per valori, con le nevi ai soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le pelle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quel pennacchio, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti andrai a farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle trovando il riposo. Gisette, padroncino d'amor, delle belle trovando il riposo. Gisette, padroncino d'amor, che rovino alla vittoria, alla gloria militare, che rovino alla vittoria, alla gloria militare, alla gloria militare, alla gloria militare.